Il cacciatore e il lupo da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Sacra fame dell'oro, avido mostro, che il ben di Dio con torvi occhi divori, fino a quando avrò coi miei flagelli trista avarizia a te levar le berze? Sordo sempre sarà l'uomo al consiglio del saggio e non dirà: questo mi basta per mio bisogno, allegri ora viviamo? Amico, guarda come il tempo vola, godi o più tardi intonerò, ma indarno, quest'inno mio che val tutto un poema. Goder io voglio ben, quando? Dimani. Ah, poveretto, e se ti coglie in via con l'irte unghie la morte? Or dunque, godi e leggi, amico, quello che racconta del cacciator la favola e del lupo. Aveva un cacciator, stesa con l'arco, una damma, quando ecco un capriolo viene a passar. In compagnia sull'erba con l'altra bestia cade moribondo. Bella preda, per Giove, un capriolo e una damma, da pagar non uno, ma 10 cacciatori. Il caso volle che uscisse anche un cinghial, grosso e superbo, contro il quale inviossi ben lo strale il cacciator, che quasi terzo all'orco lo sospinse. 3 volte alla feroce belva cercò di romper la parca con le forbici, il fil. Quando trafitto, il feroce animal sul suol piombò. C'era da andar contenti almen 3 volte, a creder mio, del triplice bottino, ma tutto è poco a riempir la pancia dell'uom ghiottone, e così volle il cielo castigar costui. Mentre s'appresta a finir la belva sanguinante, vista lontano svolazzar sull'erba una bella pernice, a lei la punta volse dell'arme. Allor che strette il fascio il mal morto cinghial l'ultime forze, affronta il cacciator, lo morde e lacera, e vendicato muor su morto corpo. Questa per voi ghiottoni udite, or voi lerci avari, la vostra. Un certo lupo venne a passar, e visto il miserando spettacolo di morte, «O benedetta la fortuna!» esclamò, «degna che un lupo le innalzi un tempio. 4 morti a un colpo, se visto mai di più, ma non bisogna abusarne, che rara è la fortuna, dicon sempre gli avari, e faccio il conto d'averne almeno per un mese. O belli, ed 1, ed 2, 3 morti, 4 morti, son 4 settimane ben provviste, s'io so contar. Comincerò dimani, o meglio fra 2 giorni, e intanto all'arco rosicchierò la corda. E lei di nervo schietto, s'io posso giudicar col naso. Così dicendo, l'unghie ecco distende all'arco, che scattò, lo stral partì e cadde il lupo con quell'osso in gola. Godetevi la vita e non vi tocchi, per gole d'avarizia, un'egual sorte, disse il lupo e fe chiosa la morale. Fine della favola Il cacciatore e il lupo. Fine del libro 8. Questa registrazione è di dominio pubblico.